Quindi non abbiamo finito, giusto? Questa sezione. Ok. Che allora, come di solito, facciamo la recitazione del Sutra del Cuore. Dopo, presa di rifugio, aggiustiamo la motivazione, poi andiamo. Così una volta udì il Bhagavan Dimaraya Jigriya sulla montagna a picco di avvoltoio insieme a Vassanga di monaci o Vassanga di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Bhuteswara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza, vedi che i cinque aggregati come vuoti in intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha e il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: come deve estrarsi un filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, rispose allora il venerabile figlio di Sharadvati: Shariputra, ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi nel seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente che cinque aggregati come vuoti in intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuote sensazioni, discriminazione, fattore di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti, non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono, non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, discriminazione, fattore di composizione, né coscienza, né occhio, né orecchio. Né naso, né lingua, né corpo, né mente, non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, neppure il consistente dell'occhio e così via, fino ad includere il consistente della mente e il consistente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estinzione dell'ignoranza, fino ad includere vecchiaia e morte, estinzione della vecchiaia e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è saggezza suprema, né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, poiché non c'è ottenimento, i Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, le loro menti senza più oscurazione e senza paura. Essendo completamente andati al di là di ora e ora, raggiungono il punto finale, Nirvana, ed affidandosi alla perfezione della saggezza è evidente che tutti i Buddha, dimoranti nei tre tempi, sono anche completamente risvegliati, insorpassabili e perfette piene di illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze. Dal momento che non è falso, dovrebbe essere conosciuto come vero, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata, gate, gate, paragate, parasam gate, bodhisattva. Shariputra, in questo modo, che il Bodhisattva, Mahasattva, dovrebbe restarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan, nel mezzo da quel Samadhi, elogiò il Bodhisattva, Mahasattva, Arya-Kateshvara, dicendo: ben detto, figlio del lineaggio, è proprio così, è proprio così. Si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio che tu hai mostrato, per figli di Tathagata ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sharadvati, il Bodhisattva, Mahasattva, Arya-Kateshvara, l'intera assemblea intorno a loro, insieme al mondo dei dei uomini, semidei e Gandharva, esultarono e poserono alte lodi al palo del Bhagavan. Sangye Jodan Sangye Chonam Lo Janju Badu Dane Gyapsu Chi Adagye Chin Sangye Pe Sonam Ki Nola Penche Sangye Drupa Jo Sangye Jodan Sangye Chonam Lo Janju Badu Dane Gyapsu Chi Adagye Chin Sangye Pe Sonam Ki Nola Penche Sangye Drupa Jo Sangye Jodan Sangye Chonam Lo Janju Badu Dane Gyapsu Chi Adagye Chin Sangye Pe Sonam Ki Nola Penche Sangye Drupa Jo. Poi, come di solito, dovremmo cercare di aggiustare la propria motivazione pensando brevemente che siamo molto fortunati perché abbiamo la preziosa rinascita umana dotata di 18 libertà, che è libertà e ricchezza, che è un grande potenziale perché su questa base possiamo creare le cause della felicità futura, ottenere la liberazione, eliminare le cause della sofferenza definitivamente, e non soltanto, ma possiamo fare anche da questa mente una fonte di beneficio e di felicità per gli altri, ok? Quindi dovrebbe dopo prendere in considerazione che comunque questa vita non durerà a lungo e che dopo C'è due possibilità: o la continuità mentale si ferma, cioè o la mente si ferma o la mente va avanti. Nel buddismo si pensa che basandosi a nostro livello sull'analisi lo possiamo fare, ma i meditatori hanno questa esperienza, vedono che il processo della propria continuità mentale è qualcosa di ininterrotto, cioè la mente viene da tempo senza inizio e questa continuità, questo costituente mentale. Cioè le cose, le condizioni sono sempre presenti per fare che la mente vada avanti, okay? Quindi nel nostro caso abbiamo due possibilità. La possibilità è quella di rimanere nei stati fortunati di esistenza o quelli di sperimentare stati di sofferenza, okay? Per questo dobbiamo vedere lo stato della nostra mente attuale, no? Se prendiamo in considerazione la nostra mente, se vediamo come si muove durante la giornata, qual è la L'attività, quali sono il tipo di attività predominante, allora possiamo indovinare più o meno verso che tipo di esperienze andremo a incontrare, no? Se la nostra mente è sempre pervasa di attaccamento, di avversione, di orgoglio, che di invidia, quel tipo di attività mentale, allora c'è grande probabilità per fare che le esperienze dopo questa vita siano difficili. Che invece sì, la coscienza è pervasa di attività mentale come quella dell'altruismo, della compassione, okay? Dell'equanimità, cioè quel tipo di fattori mentali virtuosi, allora non abbiamo troppo da preoccuparsi. Okay? Quindi dopo di questa vita, quindi in questa vita abbiamo la possibilità di creare le cause o di una rinascita superiore, okay? O quella della liberazione o quello dello stato di Buddha. Okay? Quelli, i primi due sono presentati come essendo dei rami alterni, nel senso che le contemplazioni, lo scopo iniziale, lo scopo intermedio, non costituiscono di per sé un obiettivo finale. Un obiettivo finale, ma sono contemplazione, addestramenti che servono per far maturare il terzo livello di motivazione. Quindi il primo scopo è limitato perché anche una rinascita cioè superiore come quella umana, e comunque lo possiamo vedere nella nostra vita di tutti i giorni, è comunque pervasa da imperfezione, pervasa da Sì, da insoddisfazione, no? E di sofferenza e difficoltà, okay? Quindi non passano, anche le rinascite superiori non passano al di là dell'istanza ciclica, nel senso che sono proiettati dall'ignoranza, dell'afflizione e hanno una fine comunque, okay? Per ciò che riguarda la liberazione, quindi la pacificazione completa della sofferenza nel continuo mentale. Questo potrebbe essere attraente, però dobbiamo prendere in considerazione, avere una mente molto più ampia e prendere in considerazione gli altri esseri che sono esattamente nella nostra situazione, sperimentano difficoltà, sperimentano sofferenza, però vogliono solo sperimentare felicità, il benessere, e se riguardiamo noi, il benessere e la felicità non abbiamo mai abbastanza, che ne vogliamo sempre di più, non c'è mai un punto dove siamo soddisfatti nella nostra ricerca del benessere. Quindi esattamente tutti gli altri sono in questa stessa situazione, non soltanto, ma abbiamo relazione, visto che la continuità mentale procede da tempi senza inizio, abbiamo sviluppato in queste esistenze passate tutti i tipi di relazione con gli esseri, sono state le proprie madri, eccetera. Quindi, esattamente come la madre di questa vita, cerca sempre, in generale, cerca sempre di essere di beneficio ai propri figli, no? Cioè lo circonda, no? Di un oceano di attenzione, di amore. Esattamente tutti gli altri esseri hanno avuto questa stessa attenzione ai nostri confronti quando abbiamo avuto questa relazione particolare, ok? Quindi adesso noi siamo in una situazione dove abbiamo incontrato il Dharma, okay? Quindi abbiamo questa fortuna e quindi possiamo fare qualcosa di molto significativo in questa esistenza. Possiamo fare che la nostra mente sviluppa delle qualità, sviluppa il lato della saggezza, il lato del metodo e diventa una fonte di benessere non soltanto per noi, ma anche per gli altri, ok? Quindi questo stato nel quale la mente è effettivamente in grado di essere di un beneficio ultimo agli altri è lo stato di Buddha. E quindi questi cicli di insegnamenti, essendo no, appartengono alla Mahayana, al grande veicolo, quindi dovremmo cercare di avere, di fabbricare, di generare, di fabbricare questa attitudine, almeno che ce l'abbiamo già spontaneamente, di fabbricare questo pensiero, no? Quindi dovuto a queste attività, a questa riflessione, al mio, cioè ascoltare con attenzione, posso io un giorno ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, ok? Questo dovrebbe essere la motivazione con la quale ascoltiamo cioè la presentazione, e dobbiamo cercare di mantenerlo durante l'ascolto, okay? Grazie. Ok, per ciò che riguarda, quindi noi siamo quindi alla fine delle contemplazioni, degli addestramenti dell'essere dello scopo intermedio, e l'essere dello scopo intermedio, lo sappiamo, ricerca la liberazione o il nirvana, che è la pacificazione della sofferenza. E per questo abbiamo visto ci sono due metodi, la contemplazione delle quattro nobili verità, verità della sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Quindi la verità della sofferenza va realizzata. Va compresa, va realizzata la verità dell'origine. L'origine va abbandonata, la cessazione va attualizzato e il sentiero va meditato. In breve, è in quel modo che le quattro cose si articolano. E abbiamo visto che l'altro metodo, okay, è la contemplazione dei 12 anelli del sorgere dipendente, okay? Il processo che presenta il processo. Con il quale l'essenza ciclica, attraverso il quale l'essenza ciclica si perpetua come cinque aggregati appropriati, contaminati, sorgono vite dopo vite, okay? Quindi siamo a questo punto. La settimana scorsa abbiamo visto una presentazione dei 12 anelli, una presentazione breve, quindi visto che ci sono delle persone nuove, le possiamo rivedere velocemente perché così riportiamo le cose alla memoria, e alle persone che erano qui la settimana scorsa avranno sicuramente delle domande e vedremo insieme queste domande dopo, ok? Quindi abbiamo 12, allora, ci sono delle tabelle qui, ne sono rimasti a 3, sì, potete prendere, mettete via per copie, eccetera, così le potete guardare insieme, grazie. Ok, quindi abbiamo 12 anelli che sono divisi in quattro gruppi, okay? Abbiamo delle cause proiettante, degli effetti proiettati, delle cose attualizzanti e degli effetti attualizzati. Okay? Tramite questi 12 anelli l'essenza ciclica sorge, o l'esistenza all'interno del samsara sorge. Okay? Quindi abbiamo all'inizio l'ignoranza che è un fraintendimento della realtà. Non è un semplicemente non conoscere, è una conoscenza erronea rispetto al modo di essere della persona, dei fenomeni, eccetera. È una sovraimposizione, ok? Quest'ignoranza come funziona? L'ignoranza sovraimpone un modo di esistere, aggiunge un modo di esistere alla persona, ai fenomeni che non hanno. Questo modo di esistere che sovraimpone è l'esistenza vera, ok? O l'esistenza intrinseca, o l'esistenza, sì, non dico autonoma, come è come si, è come se fosse i fenomeni esistessero di per sé, senza dipendere della mente. Cioè, tutta forma di esistenza che non appare dipendere della mente, questo è una forma di ignoranza, ok? Quindi i fenomeni, se prendiamo il tavolo qui o il microfono, non c'è il microfono, okay, o l'orologio, il tavolo, sembrano esistere del loro proprio lato, okay? Senza no, se, sembrano esistere del loro proprio lato. Non hanno bisogno, l'apparenza che abbiamo è che non hanno bisogno della mente per esistere, no? Qui c'è un tavolo, qui c'è un orologio. E le possiamo anche, se le ricerchiamo, se ricerchiamo che cos'è il tavolo del lato del tavolo, o l'orologio del lato dell'orologio, pensiamo che le possiamo trovare. Okay? Questa è l'apparenza che sorge alla mente. Quindi questo è, benvenuti, questo è una distorsione della realtà. Okay? Quindi i fenomeni è un'allucinazione, i fenomeni non esistono in quel modo. Questa apparenza che riceviamo è dovuta alle impronte dell'ignoranza, le impronte dell'ignoranza proiettano questa apparenza. Okay? E il fatto di credere a questa apparenza ci mantiene all'interno dell'esistenza ciclica. Okay? Quindi questa è l'ignoranza. Dovuto all'ignoranza, okay, abbiamo visto certi fenomeni ci appaiono attraenti del loro proprio lato, senza dipendere dalla propria mente, altri ci appaiono come non attraente del loro lato, intrinsecamente, quindi generiamo delle afflizioni come attaccamento e avversione. E queste afflizioni ci spingono all'azione, all'attività, ok? Questo è il secondo anello, l'azione di composizione, ok? L'azione di composizione quindi è un'azione, è il karma, e questo lascia un'impronte alla fine dell'azione, l'azione ha come risultato il depositare un'impronte sulla coscienza, ok? Questo è il terzo anello, coscienza. Come risultato di queste impronte, quando queste impronte vanno attivate, okay, se questa impronta è abbastanza potente, se l'azione è completa nei suoi vari rami e quindi ha il potere, proietta in una vita futura cinque aggregati che sono presentati con la terminologia di nome e forma. Okay? Nome e forma, nome si riferiscono ai quattro aggregati mentale e forma si riferisce all'aggregato fisico, materiale, okay? Nome e forma. Okay? Quindi questo si riferisce al momento di concezione, concezione? Concepimento, nel grembo materno. Okay? Dopo, a quel momento, l'entità dell'sperimentatore viene stabilita, la mera entità dell'sperimentatore viene stabilita. Dopo un po' avremo la formazione dei poteri sensoriali, e questo è il quinto anello, le sei sfere sensoriali, ok? A quel momento gli attributi dell'esperimentatore sorgono e possiamo dire che abbiamo un sperimentatore completamente formato a quel livello, ok? Dovuto alle sfere sensoriali abbiamo il contatto, ok? Il contatto l'abbiamo visto di tre tipi, ok? È dovuto alla discriminazione di questo contatto, abbiamo le sensazioni. Queste sensazioni fanno sorgere la brama, cioè brama, sì, in italiano com'è? Bramosia. Dopo abbiamo un'intensificazione della bramosia, che è l'afferrarsi, e l'afferrarsi va a far sorgere il decimo anello che è esistenza, e l'abbiamo visto, esistenza è quando un'impronte particolare lasciato sulla coscienza dal secondo anello, fattore di composizione, viene attivato al momento della morte, okay? Al momento della, anche se sì, quindi la brama e l'afferrarsi sono a un istante, cioè sono tutto il lungo della nostra vita, ok? Abramo, brama e afferrarsi, tutto il lungo della nostra vita. Però in questo contesto ciò che è rilevante è quello che accade poco prima il momento della morte, ok? Perché sono questi due anelli, brama e afferrarsi, in particolare l'afferrarsi, che vanno attivare si vanno a pescare, okay? O a attivare un potenziale karmico depositato sulla coscienza da un'azione precedente nel passato. Okay? Quindi questo è il decimo anello esistenza. Allora sì, sosseguente come risultato di questo anello abbiamo la nascita, okay? In una vita successiva, okay? E dovuto alla nascita abbiamo l'invecchiamento e la morte. Ok? Come dicevo la settimana scorsa, invecchiamento e morte, allora, sono messi insieme perché po certi possono morire senza invecchiare, okay? Nel senso che c'è il concepimento e poi c'è la morte. Ok? E quindi va incluso in questo, cioè in quest'anello di invecchiamento e morte. Quindi l'invecchiamento incomincia dal secondo istante del concepimento e la morte sappiamo che cos'è. Quindi in tutto questo lapse di tempo, non so come si dice, questo lasso di tempo, vanno prese in considerazione anche le sei sofferenze, le otto sofferenze, le tre sofferenze, vengono meditate, vengono inclusi in quest'anello, ok? Cioè per quelli che hanno fatto le contemplazioni dell'essere di motivazione intermedio, vanno qui. Ok? E più o meno siamo arrivati qui la settimana, abbiamo fatto, abbiamo discusso di queste cose la settimana scorsa. Avete delle domande prima di andare avanti? Se non avete domande, problematico. Ma il lasso di tempo, ad esempio, così è, perché ci sono tanti modi di spiegarlo, però non solo in questo caso. Il lasso di tempo che c'è tra la morte, tra la morte e la Esistenza? successiva esistenza, sì, Ok, allora, interessante, secondo me. quando si prendiamo il caso di una morte naturale, non di una morte per esempio tramite qualcosa di violento come un incidente, eccetera, allora il processo della morte prende 3 giorni, ok? Quando il respiro, quando la persona smette di respirare, che, che in ospedale viene considerato come la morte clinica, giusto? Si chiama così, no? Ok? Quindi a quel momento uno è dichiarato morto, per il buddismo non è ancora accaduto. Ci vogliono altri 3 giorni. In questo periodo di 3 giorni, i vari elementi, perdono potere e non possono più sostenere la coscienza. Dopo di questo abbiamo i vari, in sequenza, alla fine abbiamo gli assorbimenti dei livelli di coscienza dei grossolani nei più sottili, fino al manifestare la mente di chiara luce. Ok? Quando viene manifestato questa mente di chiara luce, a quel momento questo riassorbimento si passa al cuore, la mente esce e a quel momento la persona mu è morta, si è considerata come morta. Subito dopo, cioè l'ultimo istante di questa vita, cioè di questa vita, è seguito subito, senza interruzione, dalla nascita nello stato intermedio, ok? Quindi si prende rinascita in ciò che viene chiamato lo stato intermedio, ok? Allora, se dobbiamo prendere rinascita come essere umano, abbiamo uno stato intermedio degli esseri umani. Se dobbiamo prendere rinascita come Deva, c'è uno stato intermedio dei Deva, eccetera, o stato intermedio degli animali, eccetera, eccetera, ok? E in questo stato intermedio, l'essere quindi ha già l'apparenza di un essere umano, si deve prendere in astro come essere umano, ha dei poteri sensoriali che funziona, è un corpo molto sottile che non è ostruito, è un corpo mentale. E questo può rimanere in questo stato per al massimo 49 giorni. Okay? Ogni 7 giorni c'è una piccola morte all'interno di questo stato intermedio. Ok? E prende rinascita nello stato intermedio. Quindi lo stato intermedio cosa fa? L'essere ricerca sì, è il caso di una rinascita umana, ricerca il grembo materno, quindi dal potere del karma è attratto, okay, dai suoi futuri genitori, okay? Quindi al massimo 49 giorni, non c'è il minimo, sapendo che ogni 7 giorni c'è una morta all'interno dello stato intermedio. Va bene? Quindi via, per comprendere questi 12 anelli, come si fa? Si studia. In che modo? In che modo? Come stiamo facendo adesso? Nel senso che tu prendi la tabella, guarda le loro definizioni, le loro entità, cerca di rifletterci. Ovviamente devi anche leggere di qua, di là, c'è il Lamrim Chen Modi Lama Tsong Khapa che è a disposizione tradotto in italiano, c'è il Pabonka. La paponca non utilizza poco. Quindi devi andare dal Lamrim Chenmo, ok? Poi devi ricevere insegnamenti. È una cosa molto, i 12 anelli è una cosa molto complessa, ok? Ogni volta che le apro mi rendo conto che non riesco a rispondere a tutte le mie domande, ok? Quindi è qualcosa di abbastanza complesso, quindi pazienza, piano piano, ok? Piano piano. Poi ci sono vari libretti, sì. Questo è molto carino. Nei Bodhi Sutra si trovano meno di 12 anelli quando Buddha parla di questo, per esempio quando dice che devi interrompere la bramosia, sì che si interrompe, e ogni tanto succede che ne salta uno, non so, Sì, è salta nome, possibile. forma, eccetera. È possibile, sì. Però la forma completa. Allora, la presentazione dei 12 anelli la trovate nel sutra del seminario Riso. Ok? Nel sutra del seminario. Nella sutta degli antichiami di riso, Del dice Papocca. dice il Papocca, il sutra del della pianticella di riso, della o della pianticella giovane pianticella di riso. The Rice Seedling Sutra, sì, una cosa del genere, comunque, ok. È in questo sutra che viene presentato che vengono presentati i 12 anelli e dove c'è la spiegazione e il modo di riflettere, eccetera, eccetera. Ok? Avete delle domande rispetto all'entità di questi 12? Perché adesso entriamo nella presentazione dei fattori abbreviati. Rispetto alla pianticella di riso, come vanno visti questi 12 anelli? Abbiamo già. Seme, germoglio, non è più seme, Allora, ci sono delle analogie per illustrare. Però ce n'ho una, ne ho preso una. Per esempio, quando il Buddha voleva presentare le quattro cause, i 12, no, questi 12 anelli, abbiamo anche quattro cause, ok? Perché abbiamo, se tu guardi la tabella, abbiamo delle case proiettate, delle case attualizzante e delle case attualizzate. Okay? Quindi il Buddha ha fatto questa analogia, no? Quando i semi della coscienza, okay, sono piantati nel campo del karma dall'ignoranza, allora che sosseguentemente vengono, come si dice, umidificati dall'acqua della Brahma, okay? Della Brahma, allora sorge il germoglio del nome e della forma nel grembo materno. Quindi vedi, qui vengono presentate quattro, perché vengono presentate le quattro cause, però i 12 anelli sono inclusi dentro. Quindi è esattamente il discorso che ti facevo la settimana scorsa, che è molto bello leggere i sutra, va benissimo leggere i sutra, però li devi leggere con un commentario, perché è poco probabile che riusciamo a cogliere il significato definitivo, perché ci sono molti livelli di interpretazione ai sutra, okay? E a quello che ci interessa, quindi noi quello che vediamo insieme è dal punto di vista lo vediamo dal punto di vista madhyamika, che viene considerato come l'intenzione finale, okay? Quindi i sutra va benissimo, leggi, è molto meritorio, purifica la mente, cioè va bene, però col commentario a fianco, cioè devi avere il commentario e guardi la parola del Buddha, okay? E così sei in grado di estrarre le cose, però solo il sutra la vedo dura. Questo sulla pianticella di riso, sai se c'è qualche commentario? è un Buddhista. commentario sui 12 anelli. Ti ho detto il Pavonka, l'Amazon Cap, questi sono commentari a questo significato. Ok, adesso entriamo Scusa, devo farti sì, una vai. domanda veloce. Allora, l'ignoranza è fatto di composizione. Ok. Allora, io ho una visione ignorante, cioè ho la visione da. Fattore di composizione, no, azione di composizione. Ah, qui c'è scritto fattore di composizione nel Ok, Pavonka. va bene. Ok. Comunque c'è un'ignoranza per cui ho una percezione erronea di una realtà. Ok, un fraintendimento della realtà. E non è Fraintendimento. una percezione, è un concepire la Ok. realtà in un modo erroneo, perché la sola apparenza, questo non è l'ignoranza afflitta, ok? È l'ignoranza cognitiva, nel senso che è un'oscurazione cognitiva, ma non è un'oscurazione afflittiva. Afflittiva. Allora, ho questa oscurazione per cui io ho un'iniziale coscienza, che ho una coscienza praticamente liscia, no? A un certo punto ci sono delle impronte, è come se un carro solcasse questa sabbia e lascia queste impronte, che sono delle impronte karmiche. Sì, Ma com'è che io faccio la prima impronta karmica? Se io sono Da dove arrivo? La mia Allora, coscienza. tu sicuramente arrivi solo da questa vita, ok? Nel senso che Isabella è nata in questa vita e Isabella muore alla fine di questa vita. La continuità non è sicuramente Isabella, ok? Ok, ma io vado indietro, indietro, indietro. La coscienza da tempi senza inizio è stata associata all'ignoranza. Non c'è mai stato uno stato, non è che prima c'era la coscienza primordiale nello stato puro, eccetera, e dopo siamo scesi da questo stato e abbiamo incominciato a inquinare la coscienza. No, dall'inizio il costituente mentale, preferisco parlare in questo termine perché dobbiamo depersonalizzare i cinque aggregati. La coscienza non è la persona. Okay, la persona non è neanche il corpo, la persona è un'etichetta che viene sull'insieme di questi eventi fisici e mentali. Okay? Sono degli eventi fisici e mentali e per cogliere l'insieme abbiamo creato il concetto di io di persona. Okay? Quindi l'io, la persona, è semplicemente un concetto, okay? Che appare quando certi fenomeni appaiono. Si chiamano aggregati questi fenomeni. Esatto. Che sono la base di imputazione della persona. Quindi il costituente mentale, e ve lo ripeto, il costituente mentale non è la persona, non è l'io, ok? Come gli atomi di carbonio, si dice così, carboni? Ok? Che costituiscono l'aggregato della forma, non è neanche la persona, ma dei costituenti della persona. Esattamente, la mente è un costituente della persona, ok? Quindi questo costituente da tempi senza inizio è associato all'ignoranza, è stata associata all'ignoranza. Okay? Allora, le impronte, io no, cioè, tu hai fatto questa immagine del carro, io non la vedo più come dei semi che vengono depositati, se vogliamo un'immagine molto, molto grossolana, no? Sono dei semi che vengono depositati su questa coscienza, no? E alla fine di questa vita andiamo a attivare queste potenzialità in accordo al proprio stato mentale che abbiamo. Ecco, io dai semi in poi io ci sono, no? E chi è che sta lanciando quel seme? Da dove arriva quel seme? Chi è? Come Chi è che viene sta creato? lanciando? Come viene? A nessuno, se tu cerchi e analizzi, nessuno, però possiamo dire che il mero io. Ok? Se vuoi cercare qualcosa, allora nel buddismo, a livello ultimo, se tu vuoi puntare col dito un agente, un responsabile, non lo trovi perché non c'è, perché a livello ultimo non c'è niente. Le cose esistono semplicemente a livello convenzionale quando siamo soddisfatto del mero nome che viene dato ai vari fenomeni. Ok? Questo è un bicchiere, questa è una penna, qui c'è una persona, qui ce n'è un'altra. Così va bene, si incominciamo a farsi la domanda, ma che cos'è la penna? Qui che cos'è la penna esattamente? Questo è questo? O la persona? Che cos'è la persona? Allora non troviamo più niente. Questa non rintracciabilità a livello ultimo, questa non rintracciabilità analitica, questa è un'analisi di tipo ultima, che è la prova della mancanza di essenza intrinseca dei fenomeni. Okay. Quindi, se tu cerchi chi è che emette le impronte karmiche, chi fa le azioni? Isabella. Isabella compie l'azione. Però, se cominciamo a ricercare, ma che cos'è Isabella? Isabella è una mera imputazione sulla base dei cinque aggregati. Punto. C'è una domanda? E come dire, nell'anteprima c'era un'altra aggregati e altri semi. No, no, nel senso che la coscienza è. Gli esseri sono inclusi nella stessa continuità, ok? Quindi Punto. il potenziale karmico viene trasmesso in quel modo, ok? Poi questa continuità viene dato. Viene, a questa continuità viene dato dei nomi diversi in accordo agli aggregati, all'apparenza nelle varie vite. Ok? È come c'è una torcia, ok? con una torcia, ne accendi un'altra, non è la stessa fiamma, ma non è diversa, è inclusa nella stessa continuità. Oggi leggevo un pezzo di Rigpa in Padmasambhava. Come? Leggevo un pezzo di un libro sulla coscienza, Sì. sempre esistita, mai morta, sempre Esatto, e non morirà e non mai. morirà mai. Facciamo parte di una coscienza. No, non facciamo No, parte di una diciamo. coscienza connettiva, Ok. ciascuna ha la sua, siamo incluso, ciascuna ha la sua propria continuità. Ok, rispetto ai 12 anelli, avete delle domande prima che vado avanti? Ok, quindi abbiamo visto la divisione in 12, adesso vediamo la classificazione abbreviata. E la classificazione abbreviata, se prendiamo la tabella, l'abbiamo. Abbiamo dei fattori proiettante, okay, che sono l'ignoranza, che sono 3 e mezzo, okay, che sono, diciamo, 3, che sono l'ignoranza, le azioni di composizione e la coscienza. Questi tre fattori proiettante, okay, cause proiettante, proiettano quattro fattori proiettati, che sono il nome e la forma, le sei sfere, il contatto e la sensazione, ok? Poi abbiamo tre fattori attualizzante o cause attualizzante che sono la brama, la bramosia, l'afferrarsi e l'esistenza e abbiamo due effetti attualizzati, ok? Che sono la nascita e invecchiamento e morte, ok? Allora, qui vedete che siamo nel contesto di due gruppi di causa-effetto, no? Abbiamo due cicli di causalità. Abbiamo una causalità rispetto al proiettante, il proiettato, e l'attualizzante e l'attualizzato. La vedete? Ok. Quindi la domanda è: ma perché? Perché siamo inclusi in due cicli di causalità? E questi due, allora, semplicemente per farci spiegare che sono due gruppi di cause, due gruppi di origine alla sofferenza. Okay? La sofferenza che cos'è? La sofferenza sono gli anelli 11, 12, 4, 5, 6, 7. Okay? Questa è la verità della sofferenza. Okay? E abbiamo due gruppi di origine, due gruppi di cause a questa sofferenza. Abbiamo queste varie sofferenze quindi sorgono dall'ignoranza dei fattori di composizione, okay, e della coscienza e sorgono dalla brama, dall'afferrarsi e dall'esistenza. Quindi tutto ciò che è proiettato, Lamazon Kappa nel suo testo dice che tutto ciò che è proiettato dalle cause proiettante, cioè l'ignoranza, i fattori di composizione della coscienza, deve essere creato dalle cause attualizzante. Okay? Quindi, nel senso che abbiamo queste prime tre cause che depositano l'impronte, okay? Ma chi è che veramente manifesta il risultato di questa il risultato creato da 1, 2, 3 sono 8, 9, 10. Okay? Quindi tutto ciò che è creato da 1, 2, 3 deve essere attualizzato da 8, 9, 10. Ci siete? Perché è tramite la brama, l'afferrarsi e l'esistenza che vengono manifestate, okay, il risultato, cioè la nuova esistenza, okay, creato dall'ignoranza, i fattori di composizione, cioè le azioni e la coscienza. Okay? Quindi quando il proiettato, che cos'è il proiettato? Sono il nome, la forma, le sei sfere, il contatto e la sensazione, ok? Una volta che sono stati attualizzate, okay, dal la brama, l'afferrarsi e l'esistenza, Allora, questa cosa che è il proiettato, okay? Il proiettato viene designato come nato, come designato come essere nato, come invecchiando e come qualcosa che muore dopo, okay? Cioè l'effetto proiettato che viene designato come nato e che sta invecchiando. Ok? Qui però stiamo parlando dell'essere senziente, non dei fenomeni come percepiti. No, no, no, no, no, no, no, Adesso. no, questo qui parliamo della persona. Questa è come l'esistenza ciclica viene creata, no? L'esistenza ciclica è qualcosa che riguarda la persona. I fenomeni non circolano l'esistenza ciclica. Assomiglia al sorgere, perdurare, estinguersi del fenomeno come è, Sì, però appunto no, no, no, si questi siamo confondono nei tutte le volte. i 12 anelli qui. Quindi qual è lo scopo di questa presentazione? Semplicemente per dimostrare che le caratteristiche della sofferenza, che sono gli effetti proiettati, sono diversi da quelli degli effetti dell'attualizzazione, o delle cause attualizzanti. Quindi se prendiamo il primo gruppo, no? Abbiamo coscienza, abbiamo la coscienza dell'effetto, al momento dell'effetto, okay? Che la coscienza al momento dell'effetto, ve lo ricordo, è il primo momento di nascita nel grembo. Dopo abbiamo quindi il nome, la forma, le sei sfere, il contatto e la sensazione. Questi al momento della proiezione stessa sono dormenti al momento del depositare queste impronte, no? Questi qua sono al momento delle impronte sono dormenti. Perché? Perché non sono stati stabiliti, cioè loro verranno solo stabiliti o attualizzati. Nel senso che esistano solo come sofferenza futura, ma non sono stati ancora manifestati al momento della proiezione. Si dice proiezione? Ok? Quindi sono ancora sono considerati come sofferenza futura al momento della proiezione. Dopo abbiamo la nascita, invecchiamento e morte. Questo sono situazioni nel quale la sofferenza è stata attualizzata. A quel momento la sofferenza è stata attualizzata. E questa sofferenza quindi è la sofferenza attualizzata in questa vita. Noi adesso in quale anello ci troviamo? Ok, dodicesimo anello. Dodicesimo anello. Quindi abbiamo due cause di causa-effetto che presentano, abbiamo queste due cause di causa-effetto per mostrare che gli effetti, che sono il prendere e rinascita, okay? Prendere e rinascita, ha due cause, ha delle cause proiettante e delle cause attualizzante, e queste cause attualizzante attualizzano ciò che è stato proiettato dalle cause proiettante. Non è semplice, no? È un po'. Non è semplice. Comunque, piano piano. È una cosa a lungo. I 12 anelli è una cosa a lungo termine, un po' come la vacuità, è una cosa a lungo termine. Okay? Quindi abbiamo due fattori molto importanti. Abbiamo la brama, scusate, l'afferrarsi. Ok? L'afferrarsi, che cos'è? L'afferrarsi è il fattore attualizzante, è il vero fattore attualizzante. E la sensazione è ciò che fa sorgere la brama. Ok? Ciò che fa sorgere la brama. Quindi queste due non sono inclusi nella stessa sequenza di sorgere dipendente. Non possono essere inclusi nella stessa sequenza di sorgere dipendente. Okay? Perché? perché sensazione appartiene alla sofferenza futura, okay? E invece la Brahma e la Brahma, eccetera, è ciò che ha attualizzato la sofferenza attuale. Quindi sono inclusi in due set di sorge dipendente diversi. Comunque, questo era. Dopo, quando vedremo su quante vite questi 12 possono essere al minimo al massimo e al minimo attualizzate, le cose, riflettendo un po', dovrebbe sorgere un po' di comprensione a quel momento. Quindi, qual è la differenza? Un'altra cosa che dobbiamo vedere è qual è la differenza tra proiettante e proiettato. Ok? Proiettante e proiettato. Quindi che cosa proietta? Ok? Se guardiamo la tabella, che cosa proietta? Scusate, che cosa viene proiettato? Vengono proiettate 4 fattori e mezzi. Ok? Abbiamo la coscienza, effetto, il nome, la forma, le 6 sfere, il contatto e la sensazione. Questo è ciò che è proiettato. Ok? Che cosa compie la proiezione? Cosa compie la proiezione? La proiezione si fa tramite una potenzialità karmica lasciato sulla coscienza dal potere dell'ignoranza. Questo è come la proiezione accade. E cosa significa essere proiettato? Cosa significa proiettato in questo contesto? Significa creare i risultati, ok? I risultati sono questi 4 e mezzo che abbiamo visto, no? Quindi proiettato, avete effetto, proiettato significa quindi la creazione di questi 4 effetti, che condurrà a un'attualizzazione. L'attualizzazione è fatta dalla Brahma, dall'afferrarsi, il numero 9. E questo è presente. Invece questi 4 e mezzo, sono a livello dormente, perché abbiamo solo le potenzialità adesso. Se il risultato delle formazioni karmiche e dell'ignoranza sono proiettati, io dovrei poter descrivere questa cosa, questi 4 e mezzo, come io, che è quello che credo La esista base di imputazione realisticamente. dell'io, esatto. Difatti, Infatti io sono coscienza. abbiamo detto prima, no? Abbiamo detto che quando il nome e la forma vengono attualizzate, abbiamo la mera entità dell'esperimentatore che viene attualizzato. E quando le 6 sfere sensoriali vengono attualizzate, abbiamo gli attributi dell'esperimentatore che vengono attualizzate. Okay? E a quel momento è soltanto quando sorge il quinto anello che hai un sperimentatore completamente formato. Quello esatto. Ok, adesso vediamo un po' cosa significa attualizzante e attualizzato. Quindi abbiamo degli attualizzatori e degli attualizzati. Il vocabolario è un po' barbaro, però è diretto. Quindi abbiamo cos'è l'agente che attualizza? Okay? Cos'è l'attualizzante? L'attualizzante è fatto, l'abbiamo visto prima, dall'afferrarsi. L'afferrarsi è ciò che attualizza. È creato dalla Brahma, però il vero agente che attualizza, okay, è la Brahma. Che cos'è che viene attualizzato? Abbiamo la nascita e l'invecchiamento e la morte. Questo è ciò che viene attualizzato. Ciò che attualizza è la dromedia o l'afferrarsi? L'afferrarsi L'afferrarsi è ciò che attualizza, attualizza. ma è creato, sorge, è creato dalla Brahma. Però il vero agente attualizzante è la Brahma, l'attualizzatore è la Brahma. l'afferrarsi, l'afferrarsi. L'attualizzatore è l'afferrarsi. È tecnica sta cosa. Quindi come occorre questa attualizzazione? Come occorre? Quando la potenzialità karmica viene, quando la potenzialità, quando c'è il potenzializzare del semicarmico, quando il semicarmico viene potenzializzato, allora l'attualizzazione occorre. Okay? Quindi questo è il numero 10, esistenza. Esistenza è quando, vi ricordate, no? È il caso di dare il nome del risultato alla causa. Il risultato è l'esistenza, però il numero 10, esistenza, non è effettivamente l'esistenza. È quando il seme karmico depositato sulla coscienza causa dalle azioni di composizione spinti dall'ignoranza viene nutrito dall'afferrarsi e quindi è pronta a far sorgere un'esistenza successiva. Quindi questo è come l'attualizzazione accade. Quindi l'attualizzazione accade tramite il dicesimo anello, che è un potenzializzare del seme karmico. Quindi questi 12 le possiamo includere in 3. Abbiamo visto che le abbiamo inclusi in 4, le possiamo includere anche in 3. Che questa divisione in 3 è ancora più importante che quella in 4, perché abbiamo 3 gruppi: un gruppo di afflizione, un gruppo di azione e un gruppo di sofferenza. Ok? Quindi le afflizioni sono, chi è che mi trova le afflizioni? L'ignoranza 1, formazioni karmiche, no, bramosia e afferrarsi. 3 afflizioni: ignoranza, bramosia, afferrarsi. Le azioni sono 2. Nascita non è un'azione. Azione in questo contesto è karma. Contatto. No, le azioni abbiamo quello che mi ha detto prima. Formazione karmiche. Questa è proprio l'azione. E la seconda è esistenza. Queste due sono azioni. Sono karma. Ok? E tutto il resto è verità della sofferenza. Ok? Quindi il nome, c'è la coscienza, il nome, la forma, le 6 sfere, il contatto, la sensazione, la nascita, l'invecchiamento e morte. Questa è verità della sofferenza. Okay? Quindi abbiamo 3 afflizioni, 2 azioni e 7 illustrazioni della sette illustrazioni della sofferenza. Ok? Quindi dopo la sezione che viene dopo, quindi tenete bene in mente questa divisione in 3, è importante. Questa divisione in 3 è molto importante perché torna sempre nei trattati, la trovate sempre questa divisione in 3. Sì. Quindi se vogliamo andare a risolvere la questione, l'unica cosa che possiamo fare è agire sulle afflizioni, in qualche modo sradicare o l'attaccamento, la bramosia o l'ignoranza. Il meglio... Sicuramente hai capito dove devi lavorare, però il meglio è eliminare l'ignoranza, perché se tu elimini l'ignoranza, automaticamente le altre afflizioni non possono sorgere. Non sorgono. Perché? Perché le afflizioni sorgono dovuto all'ignoranza. Ok? È dovuta all'ignoranza che le afflizioni sorgono. In che modo? Chi è che mi spiega come sorgono le afflizioni in dipendenza dell'ignoranza? L'abbiamo visto questo 40.000 volte insieme. Visione errata. Sì, ma visione errata è un'afflizione. Perché sorgono queste afflizioni? Perché percepiamo i fenomeni come se avessero caratteristiche piacevoli e sgradevoli dalla loro parte. Ok, vai avanti. Ne accresciamo le caratteristiche gradevoli e sgradevoli e generiamo attaccamento o avversione. Ok, sì, c'è dell'idea, sì. Manca un paio di cose, però è così. Quindi come base, quindi l'afflizione sorge, quello che dobbiamo capire è che l'afflizione sorge dopo l'ignoranza, e una volta che è sorta, non è separata dall'ignoranza. Quindi è sosseguente all'ignoranza e concomitante all'ignoranza dopo. Quindi come base hai questo fraintendimento della realtà, questa concezione che tutto è reale, mettiamolo così in linguaggio non tecnico, reale. Quello che vedo è reale, tutto è vero. Vero in questo contesto significa che le cose, o reale, esiste che le cose, esisto, cioè significa che le cose esistono come mi appaiono. Che c'è questa conformità tra il modo di esistere e il modo di apparire. Questo è vero. Quindi, visto che abbiamo questa reificazione dell'esistenza, dovuto al karma, quindi dovuto alle nostre proprie predisposizioni, delle cose ci appaiono come piacevole o spiacevole, semplicemente dovuto alle predisposizioni. Dopo di questo, abbiamo ciò che viene chiamato l'attenzione mentale inappropriata. L'attenzione mentale inappropriata, e qui possiamo lavorare su questo, è una specie di mente, è una mente concettuale che dimora negli attributi o piacevole o spiacevole delle persone, delle situazioni, delle azioni, no? Quando qualcosa viene percepito come piacevole, okay, viene reificato piacevole del suo lato, che possiede intrinsecamente queste caratteristiche. E a quel momento abbiamo l'intenzione mentale appropriata che analizza. Oh, così è così, così, che bello, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Quindi dimora in questo e come risultato sorge l'attaccamento. Okay? E l'attaccamento implifica, come si dice? Amplifica gli attributi piacevoli dell'oggetto. Stessa cosa per l'avversione. Il fenomeno viene dovuta a predisposizione, appare come non attraente, attenzione mentale inappropriata che incomincia a dimorare qua. Questo. A quel momento l'aversione, e l'aversione è una distorsione della realtà, sì, aumenta gli attributi spiacevole, nasconde le qualità, e possiamo arrivare fino al livello dove che le qualità ci appaiono come difetti. Quindi si aumenta la qualità dell'oggetto sia in positivo che in negativo. Esatto. Nel lato dell'attaccamento, quindi abbiamo l'attaccamento esagera gli attributi positivi e possiamo andare anche fino al livello dove anche i difetti ci appaiono come qualità. Difetti di certe persone ci possono apparire come qualità. Questo fa parte del nostro quotidiano, questo. Vabbè, ma sono tutte le persone così. Cioè, viaggiamo su quella linea Eh lì. sì, perché abbiamo la concezione di vera esistenza. Finché c'è l'ignoranza, non possiamo fare altro che muoversi in questo modo. Non abbiamo scelta. Okay? È una risposta logica all'apparenza che abbiamo e al credere in queste apparenze. Cioè, l'ignoranza è dovuta al fatto che noi vediamo gli oggetti come se fossero al di fuori della nostra mente. Cioè, i fenomeni, cioè, attento a quello che stai dicendo. Perché i fenomeni hanno un'esistenza esterna. No, perché noi vediamo le città matra oggi, no? Ah Abbiamo fatto città matra oggi. sì? Avete fatto Sì. Città Matra? E per cui siamo la mente che boom, la città Ma esplode. come avete fatto Città Matra? No, studiamo sì, nel sistemi corso col filosofici Basic. E oggi siamo usciti fuori dalla sì. filosofia. Stiamo Ok, rifacendo le scuole, no? Per quindi cui dal città punto matra di vedono vista. gli oggetti Esatto, non c'è come un se mondo non fossero esterno. parte della mente, Non c'è, fuori. non è che fanno parte, non è che fanno Sono parte, della natura. Sono della natura, della natura. sono neanche della natura, sono della stessa entità sostanziale. Sostanziale, sì. Attento, se mi dite che sono la natura della mente, allora significa che questa è mente, ma questo non è mente perché questo non è un conoscitore. Quindi sono la stessa entità sostanziale, significa che derivano della stessa impronte. Questa impronte karmica, ok? Depositato, de depositato sulla coscienza causa dal numero 2, è di questo che parliamo. E queste impronte qui per i Citta Matra, quando quando viene attivata, simultaneamente si manifesta come un oggetto, come un percipiente e un percepito. Percepito e percepiente, simultaneamente. Quindi derivano dalla stessa impronte, quindi sono della stessa entità sostanziale. Quindi per il Citta Matra non c'è un mondo esterno. Allora quel bicchiere è sofferenza. Come? Perché? Quel bicchiere è sofferenza, ci Perché? sono le cause. Come ti aspetta che faccio i nomi? Abbiamo detto che le sofferenze sono effetti attualizzati. Sì, le sofferenze sono nome e forma, qui non parliamo degli oggetti esterni, Ah, però per il qui Cittamatra sì. parliamo, no, no, No? no, ah, no, no, no, questo, qui parliamo solo di fenomeni che sono incluso nel continuum della persona. Il bicchiere, anche per Citta Matra, non è Non è incluso incluso nel nel continuum della persona, ma ha soltanto la stessa. ma deriva della stessa impronte karmica. L'apparenza del bicchiere deriva dalla stessa impronte karmica che ha la percezione del bicchiere. Ecco perché ho fatto quella domanda prima, lo facevo da un punto di vista del discorso dei semi karmici. È la stessa cosa, però a livello della visione filosofica cambia la visione. Okay? Quindi per noi ci sono dei fenomeni esterni. Okay? Ovviamente è chiaro che come i prasangika concepiscono la realtà esterna, non c'entra niente. Come noi possiamo concepire la realtà esterna. C'entra niente. Per esempio, avete visto i Citta Matra? Citta Matra, quando sono studiati, sembrano che è qualcosa di. È una rivoluzione, no? Asserire che non c'è un mondo esterno è qualcosa che ci fa tremolare, gli fa tremolare a un certo livello, no? E ci sembra, e quando i prasangika dicono: no, ma no, c'è un mondo esterno. Ma non c'è un'esistenza intrinseca, sembra qualcosa più rassicurante. Questo perché non abbiamo nessuna comprensione del sistema prasangika, perché i prasangika vanno ancora più lontano che Citta Matra. No? È ancora più lontano, cioè rifiutano di più del Citta Matra. Quindi questo significa che dobbiamo lavorare sulla comprensione madhyamika prasangika. Ok, andiamo avanti. Allora, il numero di vita nelle quali necessarie, il numero di vite necessarie per completare i 12 fattori, ok? Allora, la cosa che dobbiamo sapere è che tra le cause, che tra il proiettante e il proiettato, ok? Il proiettante e il proiettato, molti eoni possono occorrere, okay? Molti eoni. Invece tra l'attualizzante e l'attualizzato è immediato, la sequenza è immediata. Quindi i semi karmici possono maturare. Posso chiederti una cosa? Mi sembra che di aver ascoltato durante una tradizione che i semi karmici in assenza di afflizioni, cioè in presenza di una mente non afflitta, non maturano. Esatto, E quindi. però non ti devi preoccupare perché la nostra Non è mente è mia. afflitta, Sì. quindi sicuramente matureranno, questo è il problema, Eh ma sì. è giusto che quando non c'è, quando se uno non ha ignoranza, non crea karma. Karma, in questo contesto, karma si riferisce a qualcosa che ti fa rinascere nell'esistenza ciclica. Okay? Quindi se uno non ha afflizione, non c'è karma. Anche se è un caso ipotetico, uno non ha nessuna impronte karmiche. Dal momento che sorge un'afflizione, immediatamente incomincia a creare le potenzialità karmiche. Contrario, se ha già potenzialità karmiche ma non ha più afflizioni, Finito, non prendi più. cioè si è È la purificato. liberazione. Questo si chiama il nirvana. Quando ha eliminato tutte le 81 livelli della concezione di vera esistenza, okay, ottieni il nirvana. Hai eliminato tutte le varie livelli dell'ignoranza, o a quel momento, anche se uno ha accumulato del karma da tempi senza inizio, okay, che è effettivamente così, non prendi più rinascita, hai attualizzato la tua ultima nascita all'interno dell'essenza ciclica. E il continuum, La mente non si continuum ferma, non si quindi ferma. passi da un processo di nascita contaminato a un processo di nascita non contaminato. Quindi avrai, adesso abbiamo cinque aggregati nella natura della sofferenza, no? La mente è sempre lì al vertice di creare dei problemi e anche il corpo, no? Quindi hanno delle caratteristiche defettuose. Quindi sono contaminate perché sono il frutto dell'ignoranza, afflizione, azione, eccetera. Quindi una volta che hai eliminato l'ignoranza, hai cinque aggregati puri, che non sono nell'entità della sofferenza, non sono il prodotto dell'afflizione, ma sono il prodotto della mente altruistica, della saggezza che comprende la realtà, non più dell'ignoranza. Quindi non fungono più di supporto alla sofferenza. Va bene? Prego. Ok, allora sì, guardiamo le due colonnine che abbiamo alla destra della pagina, no? Allora, la prima abbiamo su 3, c'è il numero 3 e dopo c'è il numero 2. Questo significa che al massimo abbiamo bisogno di tre esistenze per il ciclo completo dei 12. E al minimo su un lasso di due esistenze. Adesso vediamo come si fa questa cosa. Allora, quando dico tre, non significa uno, due, tre, uno dopo l'altra, perché abbiamo visto che tra le cause proiettante e gli effetti proiettati molti eoni possono succedere. Semplicemente questo sono il numero di esistenza necessario per completare il ciclo di 12, perché questi 12 sono incluso in un ciclo di sorgere dipendente particolare. Ogni azione ha il suo ciclo di 12. Ok? E questa è la cosa. Non è una cosa in generale o globale. È che ogni azione, ha il suo ciclo di 12. Quindi per completare il ciclo di 12 ci vuole almeno 2 e al massimo 3 vite, sapendo che tra le cause proiettante e l'effetto proiettato, molte esistenze possono sorgere che sono risultato di altri cicli di 12 che si completano in quel modo. 12. 12 anelli. 12 Ah. anelli. È terrificante. Quindi sì, è così, ma ecco perché questa viene considerata come una delle migliori meditazioni per generare disincanto rispetto all'essenza ciclica, per far generare questa mente dell'emersione definita. Perché meditando in quel modo uno dice basta, basta. Quanto ieri che non possiamo saperlo finché, cioè per dire, possiamo scoprire attraverso come se fosse un terma il fatto di dove siamo. Dove siamo? Beh, lo sappiamo dove siamo. Abbiamo detto che siamo nel dodicesimo. Sì, però no, io intendevo a che livello dei 12 cicli o dei 3 cicli da 12. Abbiamo. No, no, no, Spiegare. no, non Posso spiegare? funziona, non funziona così. Non funziona. Il ciclo di 4, il ciclo di 3 o il ciclo di 12 è lo stesso, solo che viene condensata in vari modi, ma è lo stesso. Ogni volta che fai un'azione, questa azione, sia un'azione completa, avrà 12 anelli. Ah, si deposita su 3 strati diversi, su 4. Sì, i E su 12 quattro per vengono veloce. completati, i 12 si completano o con 2 vite o con 3 vite. Per esempio, adesso sei nel invecchiamento e morte, ok? E quindi inclusi in un ciclo particolare di 12, quindi stai completando un ciclo particolare di 12. Quindi nella vita prima di questa, hai avuto il 10, il 9 e l'8. Perché l'8, 9 e il 10 hanno al momento della morte immediatamente precedente, hai attivato la potenzialità karmica depositata in un'altra vita dal 1, 2, 3. Okay? Questo è stato attivato alla fine della vita immediatamente precedente a questa. E quindi stai sperimentando 11 e 12 adesso. Hai capito? Sì. Ecco come funziona un po' la cosa. Ho capito, Sì, un paio di minuti li ho capiti, ci vuole un po' di sono tempo. coincidenti. Ci vuole un Ma po' di dimmi tempo. una cosa, dicevi l'azione per attivare questi 12 anelli, parlavi dell'azione per entrare in relazione con questi 12 anelli, l'azione deve essere completa. In generale, però, non sono convinto di questo. Non sono convinto che un'azione completa sia l'unica modalità per proiettare i quattro effetti del karma. Quindi qui quello che guardiamo qui è l'effetto di piena maturazione, giusto? Si chiama così, l'effetto di piena maturazione. Quindi non so, quando si studia il karma, si vede l'azione completa. E subito dopo vengono presentati i quattro effetti dell'azione completa. Quindi c'è questa tendenza a credere che solo un'azione completa può avere un effetto di piena maturazione, ma non sono convinto. Quattro, non sto a dire, ma quattro sono il numero 4, 5, 6, 7, No, come quattro, no, no, stiamo no? parlando di un'altra cosa. Ah, ok. Cioè, anche l'azione inconsapevole No, no, può. non un'azione inconsapevole, ma per esempio un'azione completa, che cosa ha? Ha quattro rami, l'azione completa, no? Ha una base, se prendiamo l'azione di uccidere, la base deve essere un altro essere vivente. Poi hai il ramo dell'intenzione, all'interno hai la discriminazione corretta, quindi l'identificazione corretta della persona che vuoi uccidere, hai la motivazione, che è quella di uccidere, e hai una delle tre afflizioni, ignoranza, attaccamento, avversione. Questo è il ramo dell'intenzione. Dell Dopo hai l'azione, ok? E dopo c'è la conclusione, il completamento, ok? Quindi questi quattro rami. Allora, sì, le quattro sono completi, abbiamo quattro effetti del karma, effetto proiettante, tendenza simile alla casa, esperienza simile alla casa, effetto ambientale. Però guardiamo un po' una cosa. Mettiamo, io ho deciso di uccidere Paolo, ok? È una cosa che sto pianificando un po' da settimane, no? Quindi la preparazione è lunga, l'attività mentale, l'intenzione è lunga, ok? Quindi per una settimana faccio i piani e so che Paolo tutti i giorni passa di qua, ok? Quindi una sera l'aspetto, ok? Quindi abbiamo la discrimina, L'intenzione. abbiamo la base, abbiamo la motivazione, abbiamo la discriminazione corretta, c'è l'afflizione perché mi sta sui nervi, per esempio, ok? Quindi abbiamo l'avversione, ok? È ipotetico, è una Sì, cosa ipotetica, capito. ok? E al momento, quindi passa, io l'aspetto qui nel cespuglio, no? E gli salto addosso, gli do 4-5 coltellate e lo lascio per morto e me ne vado. Però non muore, sopravvive. Quindi l'azione non è completa. È difficile di dire che quel tipo di azione non proietta. Quindi non ha E se senso. invece di, tu pensi che lui invece passa un altro? Anche, ho dei dubbi. Perché è molto potente, no? Dipende dalla preparazione, no? La preparazione, come si chiama? C'è due tipi di preparazione, una preparazione ravvicinata, una preparazione, sì, quell'altra preparazione più lontana, che è quella di pianificare la cosa, no? Poi sì, Meditata. dipende, come? L'hai meditata. Sì, si chiama la preparazione lontana, perché c'è la preparazione ravvicinata. Perché la preparazione ravvicinata è quando do le coltellate, questa è la preparazione ravvicinata. non è l'azione di uccidere. L'azione di uccidere è quando Paolo muore. Questa è l'azione di uccidere. E se poi invece ti capita di uccidere senza pianificare? Questa è un'azione che ha compiuto ma non accumulata, perché non c'è l'intenzione. Quindi quel tipo di azione non è certo che dà un risultato. Ma visto che noi abbiamo sempre una mente afflitta, praticamente generare un karma positivo, che un'azione completa positiva è sostanzialmente No, impossibile. non è sostanzialmente così. Fortunatamente ci arriviamo. Però ci vuole molto più sforzo, no? Nel senso che se tu guardi in che modo compiamo un'azione non virtuosa, l'azione non virtuosa in tutti i vari rami è molto potente. La discriminazione, l'intenzione, la motivazione, no? Se qualcuno ci dice qualcosa che non ci piace, siamo lì a pianificare la cosa, a pensare e pensarsi per molto tempo, poi sappiamo a scegliere esattamente la replica che va a ferire in modo perfetto la persona, no? E poi quando viene fatto, no? C'è il rallegrarsi di questa cosa, no? Se vediamo invece come compiamo la virtù, quanto è difficile per noi di generare una motivazione intensa, di essere ben concentrato durante l'azione, che l'azione sia perfetta nella sua esecuzione, e poi il rallegrarsi delle virtù che accumuliamo ci vuole. Quindi per noi le virtù sono molto potente e le non virtù sono molto potente e le virtù sono debole. Però non abbiamo sempre, fortunatamente, non abbiamo sempre una mente afflitta. Abbiamo sempre. In questo momento penso che non abbiamo una mente afflitta. Normalmente. Non dovrebbe. A meno che forse il mio discorso sta agitando qualcuno in un modo particolare, allora è possibile che questa persona abbia una mente afflitta, sto generando l'avversione, però normalmente adesso non abbiamo una mente afflitta, dovremmo avere una mente virtuosa, perché abbiamo generato la motivazione, eccetera, eccetera, eccetera. E nello stesso modo che l'ignoranza non è sempre manifesto, non è sempre manifesta l'ignoranza. Abbiamo sempre l'apparenza di vera esistenza, ma l'afferrarsi alla vera esistenza non è sempre manifesto, perché ci sono molte illustrazioni nella giornata dove ci accontentiamo del mero io. Però dal momento che siamo emozionalmente implicati in una situazione, subito c'è l'ignoranza, subito. A quel momento c'è l'afferrarsi e poi l'afflizione. E poi le azioni e i 12 anelli. È così, eh. Olivia, quindi Un'azione, 12 anelli. Una l'errare domanda. Vecchiaia e morte in un'azione. Dove in un'azione, cioè, non ho sono? Cioè, perché capito. si è detto che per ogni azione corrispondono questi Ah, 12 non anelli. me lo ricordo. Te lo dico la settimana prossima. Devo riaprire. Il commentario, un commentario particolare, te lo dico. Se volete, la settimana prossima velocemente ve le faccio come vengono presentati in ogni azione. Ve lo E faccio. comunque cioè, si intende vecchiaia e morte di un'azione. Non Oh. saprei, non mi Vabbè. ricordo. Non mi ricordo, completamente. Cioè, completamente. Dicevi che è rarissimo quando noi generiamo, facciamo un'azione negativa, c'è molta più potenza, Sì. più intenzione, cioè più sentita. Mentre invece le azioni positive, oltre che rare, sono fatte un po'. Sono più difficile per noi. Perché? Perché sono più Perché siamo nati. Allora, questo è il caso di uno che non ha contemplato la sofferenza della nascita che abbiamo visto insieme. Perché quando vi ricordate quando mi ho fatto le varie sofferenze, no? Abbiamo visto la sofferenza della nascita, la divisione in 8, okay? Abbiamo visto che la sofferenza della nascita è suddivisa, ci sono 4-5 punti. Uno è che si prende rinascita, una delle sofferenze della nascita è di prendere rinascita con delle predisposizioni o delle tendenze disfunzionanti. Okay? Nel senso che da tempi senza inizio ci siamo familiarizzati con l'ignoranza e l'afflizione mentale. Quindi, più la mente riproduce ciò che conosce. Se tu abitui la tua mente in un certo modo, diventa dopo con la familiarità diventa un automatismo, non hai più sforzo. Ecco perché per noi l'attaccamento, l'avversione, l'orgoglio, ciò che vuoi, sorge così spontaneamente e con forza. Non hai bisogno troppo, non hai bisogno di riflettere sulle qualità di un oggetto per generare dell'attaccamento. Lo vedi e bam, c'è l'attaccamento. O quando qualcuno ti dispiace, senti o lo vedi, non hai bisogno di riflettere e subito generi l'avversione. Questo è perché abbiamo una grande familiarità con le afflizioni. Più sviluppi un'afflizione o più lasci la tua mente a sviluppare un certo tipo di afflizione, più questa afflizione diventa una seconda natura per la tua mente. Ecco perché certe persone hanno più predisposizione per l'attaccamento che per l'avversione o per l'orgoglio o altre, perché semplicemente è un lasciare questa afflizione riprodursi. Perché ogni volta che un'afflizione sorge, lascia un'impronta per un'altra afflizione di tipo simile e di livello simile. Quindi non è che puoi andare alla fine dell'attaccamento, per esempio, nel senso che ti sfoghi su tutti gli oggetti di attaccamento perché in quel modo pensi che un certo giorno arriverai alla fine dell'attaccamento. Assolutamente no. Lo È come bere riproduci. dell'acqua salata. Sì. Quindi visto che hai tutte queste impronte di afflizione, la mente automaticamente per la virtù ha molta resistenza, molta resistenza. Siamo pigri, quindi questa è un'afflizione secondaria che deriva dall'attaccamento. Vogliamo meditare, c'è il torpore, vogliamo meditare, c'è la distrazione verso gli oggetti di attaccamento. Queste sono le afflizioni dietro. Poi in più nasci e automaticamente ha dei poteri sensoriali. È semplicemente perché ha dei poteri sensoriali, hai il contatto, hai la sensazione e c'è l'attaccamento, l'avversione che sorge. Perché tutto ciò che tu vedi lo discrimini come piacevole o spiacevole. Se non sei attento, alla fine di un contatto piacevole c'è l'attaccamento, alla fine di un contatto spiacevole c'è l'avversione. Quindi questa è la sofferenza della La mia nascita. domanda è più sul metodo. Nel senso, hai lasciato intendere che sulle azioni negative abbiamo un'enfasi talmente alta che porta ad una maggiore potenza a quell'azione. Mentre invece per le azioni positive, rare che sono, siamo molto più fiacchi. E chiedevo, ci vuole un metodo? No, ci vuole molta determinazione, far sforzo Sì, a no, dico prendere. come metodo. Sarà anche un metodo, lo sforzo. Nel senso, ognuno di noi capita che durante la giornata o nell'arco della vita farà qualche azione positiva. Deve essere. Per esempio, adesso stai facendo normalmente un'azione positiva, ma la positività di questa azione dipende dalla tua motivazione. Il risultato di questa azione dipende dell'amplitudine, della forza della tua motivazione, della tua intenzione, anche della capacità di tenere la mente concentrata e attenta durante tutto il discorso. E anche della dedica potente, concentrato, no, o vasto o no, che farai alla fine. Capito? Questo è il metodo. Una domanda più specifica. Uno, ti chiedono una cortesia, un passaggio a Pomaia e tu dai questi passaggi. Devi focalizzarti su qualcosa in particolare per Allora, utilizzare al meglio la quell'azione. motivazione, Cioè, ti chiede sulla motivazione. è sulla motivazione che devi lavorare, che dobbiamo tutti lavorare. Non c'è tutte le azioni, perché il risultato non dipende di troppo di ciò che fai, ma con quell'intenzione fai. Nel senso che se uno dà un passaggio a qualcuno a Rosignano, non so, pulisce, lavora in cucina, studia, medita, fa il giardino, si lo fa con la motivazione altruistica, si lo fa con la motivazione che tramite questa azione cioè, lo fa per ottenere questo stato di Buddha, eccetera. Allora queste azioni diventano cause per questo risultato. E poi alla fine, quindi far l'azione anche dopo, allora alla fine, all'inizio la motivazione, durante essere concentrato e non perdere questa motivazione, non perdere questa motivazione, ok? E alla fine la dedica. In quel modo ti assicuri che tutti i momenti della tua giornata, no, stai creando le cause per la tua felicità e la felicità degli altri. E in quel modo cogli l'essenza di questa vita. Cerchi altri, come si potrebbe dire, spersonalizzare l'azione in altri ambiti, si dice così, cioè togliere dall'azione che fai oggetto, soggetto e. Allora, alla fine della dedica, se la vuoi anche, la dedica la puoi anche sigillare con la comprensione che le tre sfere, la gente, l'azione e l'oggetto e il sopporto sono privi di essenza intrinseca. Okay? O può anche fare l'azione con questa consapevolezza. Fantastico. Però per arrivare a questo bisogna prima aver studiato un po' per capire cosa significa essenza intrinseca. Okay? Però questa è la cosa migliore da fare. Consapevolezza. Sì, ci sono. Dipende dalle nostre capacità. Ci sono le persone che riescono effettivamente a comprendere che le tre sfere sono prive di essenza intrinseca e vanno avanti tutta la giornata così. Sono altri che hanno molto, molto saldo, ma è molto ferma la mente altruistica, quindi vanno avanti la giornata con la bodhicitta. Poi sono le persone come noi, dobbiamo battagliare con tutto. Scusa Livia, motivazione, azione e dedica sarebbero un equivalente delle quattro caratteristiche che deve avere un'azione per essere completa. No. Ma Però la se. domanda che ti avevo fatto era in merito a questo. Nel senso che un'azione negativa, se ha queste Anche quattro. un'azione virtuosa. Anche un'azione. Io ti dicevo, l'azione virtuosa, come riflettere su queste. Parlando di queste quattro, È sono. l'intenzione. Che è la seconda, la base dell'altra persona. L'intenzione è su questo che devi lavorare. Non concettualizzare troppo, cioè le cose sono molto più semplici di come te le rendi, ti rendi le cose molto complicate. Perché l'intenzione Lavora sull'intenzione. nell'azione negativa l'intenzione è più è forte, Sì. cioè è come si dice, È come se tu fossi esterna. malato. No, esterna nel senso che uno la oggettivizza, Ma ci medita, ci riflette a parole, non so cosa come dire. dici? Tu Tu sei malato, Ma se uno è un macellaio e uccide ogni giorno con la motivazione di guadagnare per sostenere la propria famiglia, per esempio. non cambia niente, perché cioè, può Senza togliere, rabbia, senza giudizio. toglie del peso all'azione. È chiaro che toglie del peso all'azione, però l'azione di uccidere, la sua entità è un'azione non virtuosa, quindi difficile. Questi sono dei casi molto difficili. L'induismo dice che alleggerisci l'azione, Sì, no? sì, Cioè la motivazione e la sopravvivenza. la sopravvivenza, è chiaro che è meglio di uccidere per la sopravvivenza che per l'aversione, che per aversione, Vabbè, certo. però entrambi sono da abbandonare. Andiamo avanti. No, non andiamo avanti. Andiamo avanti. Io mi fermo qui oggi. Sì, quindi siamo quasi rimasti allo stesso punto dell'altra volta. Eh sì, devo Abbiamo fare consolidato. Ok. Quindi dobbiamo vedere. Sì, no, abbiamo fatto uno in più. Abbiamo fatto la classificazione abbreviata. La prossima volta dobbiamo fare il numero di vita necessaria per contemplare i 12. È il significato riassunto e il modo di meditare. Dobbiamo vedere queste cose perché vorrei andare avanti. Ok? Quindi ci fermiamo qui. Olivia, sull'intenzione mi interesserebbe capire. No, è importante. Certo Per che è me americana questa importante. cosa. Nel senso che se io ho l'intenzione di danneggiare qualcuno, è presente in me questa Ti intenzione. devi Ed è forte. opporre, ti devi opporre a questo. Ok, però lasciando stare l'opporsi, perché sto parlando di un'azione negativa, dico, questa Appunto. intenzione. Sì, ok. Questa intenzione è presente. Certo. È presente nella mia mente. Certo. Invece durante un'azione positiva, È anche presente nella tua mente, ma durerà un l'intenzione attimo. è perché è debole, è di questo che sto E io parlando. questo che ti sto chiedendo, nel senso non deve durare un attimo, ma deve essere, deve essere più ragionata. L'unico modo al nostro livello per far sorgere una tensione molto potente è di ragionare. Per esempio, perché stiamo passando 10 minuti all'inizio di ogni sessione per generare questa mente di bodhicitta? Perché dobbiamo passare su vari stadi, ragionare e vedere che effettivamente la mente di bodhicitta è qualcosa che ha senso e che dobbiamo generare. Però la mente di bodhicitta non ce l'abbiamo. Io non so. Sì, no, diciamo, normalmente non ce l'abbiamo, è difficile Per un essere averla. Ok, ordinario sì, mentre è molto invece per difficile. fare un'intenzione positiva Ma è rara tanto è questo quanto. l'intenzione positiva che devi cercare di generare. È la mente altruistica, la mente di bodhicitta. È questa l'intenzione che devi cercare di generare. È questo che devi cercare di generare in tutte le tue azioni, tutta la giornata. Punto. Chiudiamo il discorso. Qualcuno dice senza intenzione. No, senza intenzione no. Bramosia e sensazione, no? La bramosia che è saggio della sensazione. Sì, ma questi due lì, sono d'accordo, Riesco a eh? capire i due set separati, non riesco a capire perché la vita futura, cioè la sensazione per la vita futura e la bramosia per la vita attualizzata, non ho capito. Ah. Perché, allora, semplicemente, sì, prendiamo, al momento della proiezione, no? La proiezione è fatta da 1, 2, 3. La proiezione è fatta da 1, 2, 3. Il risultato di questa proiezione è 4, 5, 6, 7. Sei d'accordo? Ok. Però al momento di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono solo un potenziale, non esistono, perché è la vita futura. Però alla fine di questa vita fai 8, 9, 10. E 10 va a attivare ciò che hai messo in 1, 2, 3 per proiettare e che proietta 4, 5, 6, 7. E questo si chiama nascita, perché nascita 11 è simultaneo con 4. Comunque la settimana prossima spero. Andiamo in questa cosa, okay, 2-3. È la settimana prossima o No, no, la settimana prossima, perché cosa c'è la settimana prossima? basta, cioè Ah, la sì? classe di revisione, dovreste avere la classe di revisione. Allora, no, la settimana prossima. Ok, Almeno io non mi ricordo mai, i numeri è una cosa per me difficile. mi sembra di aver letto Le tutta la date. notte. Allora, febbraio. Sì, venerabile Olivier, 17 febbraio, 19, tesoreria della coscienza Ok, manifesta. allora non c'è. Ok, va bene, quindi sono di vacanze. Bene, ok. Quindi tra 2 settimane. Così avete il tempo di leggere. Di leggere, ok? Vedere queste cose. Guardate il Grande Lamrim di Lamazon Kappa, che è tradotto in italiano. Vi ripeto che questo libro lo potete, sono 3 volumi, lo potete ottenere gratuitamente scrivendo al Centro Samantha Badra di Roma. Okay? Dovete solo pagare la spedizione e il libro, i 3 volumi lo ricevete gratuitamente. No, ce la fai l'offerta. No, io l'ho C'è da fare preso perché c'è da un'offerta? fare Sì, l'offerta. No, no, altrimenti c'è il Pabonka e poi sono sicuro che queste cose, no? Ci sono un sacco di trascrizioni qui in giro all'istituto dove trattano di questo argomento, dove potete leggere più ampiamente su questa cosa. Okay? Quindi adesso andiamo a concludere la nostra azione, Paolo, con la dedica. Okay? Quindi tutti questi virtù che abbiamo generato per fare in modo che non si perdano, okay, in una maturazione unica, ma che danno, per fare in modo che danno dei risultati fino all'ottenimento dello stato di Buddha, andiamo a dedicare quindi tutte queste virtù finché molto velocemente possiamo attualizzare questo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Andiamo a dedicare anche per far che la mente di Bodhicitta sia generata velocemente, che non degenera in quelli che l'hanno generata. Andiamo a dedicare anche per la lunga vita dei maestri che insegnano il vero sentiero verso la vera cessazione finché i loro desideri si esauriscono. E andiamo anche a dedicare per fare che gli insegnamenti del Dharma dimorano per molto tempo in questa terra senza degenerare. Gone gondo balwa jo gare rawa gorwe chingamde dam dam dewa malu juwe chenre jiwa jing gyatso ye shampe site abandu dengyu daso chinye zambe gyawa de dam dam drowa gona gambe do yamba jetsu lozan ramoi Tembe nyombo rendu se jeju. Grazie. Quindi oggi avete avuto la revisione del basic, ma con Lorenzo? No, con Gabriele. Ah, sì, è l'altro basic, ho capito che... Sì, Sono un po' più bello. Siamo sulle scuole. Ah, sì? Molto interessante. Affascinante. Sì, è pazzesco, veramente. Infatti poi ci piace perché quando stavo a Isabella ha pianto per quando Gabriele ha parlato della mancanza di esistenza intrinseca di un albero. L'albero non si trova nella corteccia, non si trova Ah, grazie. Vabbè, però puoi sempre lavorarci sopra.